Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, ben arrivati. Luca Tremolada al microfono. Sono le 16.06. Insomma, oggi puntata alta. Puntata difficilissima, più in alto del cervello dove vuoi arrivare. Chi vi parla è Guido Romeo, che oggi ci porta qui, possiamo dire, Giacomo Rizzolatti, neurologo, neurofisiologo anzi, e puntualizziamo, ed è un grande onore per noi avere Rizzolatti. Buongiorno. Buongiorno, sono qua. Buongiorno Rizzolatti, benvenuto. Perché è un grande onore? Perché, insomma, ci stavamo dicendo prima, guarda che rischia di prendere un Nobel Rizzolatti. Non bisogna dirlo, perché non poi per scaramanzia scaramanzia non si dice. Comunque Giacomo Rizzolatti all'Università di Parma, insieme a Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese, Giuseppe Di Pellegrino, è lo scopritore dei neuroni a specchio, i famosi mirror neurons. Allora, per calare i neuroni a specchio nell'acquario corretto, mandiamo una scheda di Guido Romeo. Vedere qualcuno che soffre o ride è esattamente come soffrire o ridere in prima persona. Questa empatia è possibile grazie ai neuroni specchio, delle cellule motorie molto speciali collocate nella nostra corteccia cerebrale. Scoperti nei laboratori dell'Università di Parma da Giacomo Rizzolatti insieme a Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese e Giuseppe Di Pellegrino, i neuroni specchio sono diventati rapidamente delle vere e proprie rockstar delle neuroscienze. Vilanur Ramachandran, uno dei guru della neuropsichiatria, li ha paragonati alla scoperta della doppia elica del DNA. E negli Stati Uniti i mirror neurons oggi sono perfino studiati per capire come ci appassioniamo di fronte a un incontro sportivo o reagiamo alla pubblicità. Identificati nelle scimmie, ma anche nell'uomo e negli uccelli, i neuroni specchio si attivano selettivamente sia quando si compie un'azione, ad esempio sollevando una tazzina da caffè con la mano o aprendo la bocca per parlare, sia quando la si osserva mentre è compiuta da altri. I neuroni dell'osservatore rispecchiano ciò che avviene nella mente del soggetto osservato, come se fossimo noi stessi a compiere l'azione, e ci aiutano a capire il senso e anticipare ciò che vediamo o ascoltiamo. Oggi i mirror rimettono in discussione molti assunti sulla mente umana e sullo sviluppo del linguaggio, ma aiutano anche lo sviluppo di nuove terapie per i bambini autistici o di interfacce elettroniche per permettere al nostro cervello di comunicare direttamente con le macchine. Ecco, Rizzolatti, i neuroni specchio sono anche chiamate le cellule dell'empatia. Ci può spiegare un po' a noi e ai nostri ascoltatori perché? Penso che sia già stato detto un po' nella scheda il perché. Perché le stesse aree cerebrali che si attivano quando noi sentiamo un'emozione, mettiamo conto il dolore, io sono stato pizzicato da qualcuno, ho preso una botta e sento male. Ecco, se vedo un'altra persona che ha avuto lo stesso accidente, si attiva esattamente la stessa area nel mio cervello. Quindi non è che io faccio un processo cognitivo, dico, ah, quello ha sentito male, quindi io ho capito che ha male, ma effettivamente è come se fosse stato colpito, entro certi limiti ovviamente, ma comunque il meccanismo di base, quello che rispecchia l'attività dell'altro, è esattamente la mia area del dolore. Ecco, è vero che è stato un po' casuale come scoperta, come spesso accade. Questo mi dà un po' di fastidio. Che non è stata casuale, cioè l'avete cercato. Casuale è la fortuna che esistessero questi neuroni, ma quello che noi abbiamo fatto è metterci nelle condizioni di poterlo scoprire. Cioè, io sono molto fiero di quello che abbiamo fatto prima che con Fadiga, Fogassi e Gallese, con Mattelli e Lupino e in parte Gentilucci. Cioè, noi prima abbiamo deciso che dobbiamo studiare il sistema motorio non nella maniera tradizionale, ma come se fosse un'area sensoriale. Cioè, le spiego meglio. Il sistema motorio molto spesso è stato considerato un produttore di movimenti e come tali studiavano la dinamica, la cinematica. Noi abbiamo detto no, vediamo come fa uno a decidere di pigliare un pezzettino di cibo. Cioè, questi neuroni non sono così stupidi, non è che solo determinano la velocità o l'accelerazione, devono avere qualcosa di più. E abbiamo dovuto superare parecchie difficoltà, perché questo approccio che era usato nel sistema visivo, la storia del neurone, cosa fa quel singolo neurone? Noi l'abbiamo applicato nel motorio e quindi abbiamo dovuto usare un processo etologico, una maniera etologica, abituare le scimmie a stare con noi, a dargli i semini. Cioè, abbiamo fatto un lavoro preparatorio che ci ha portato delle scoperte cose importanti prima dei neuroni specchio, ad esempio sull'organizzazione dello spazio, che intorno a noi c'è un cuscino di spazio, e noi intorno viviamo come in un cuscino di aria, e quando uno entra in questo cuscino è come se ci toccasse. No, la casualità era semplicemente perché mi avevano raccontato, non so se sia vero, che c'era un gelato di mezzo, c'era un ricercatore che stava mangiando un gelato e la scimmia, lo scimpanzé, insomma, ha reagito d'istinto. Esatto, non è così la storia, no, l'ha inventata New York Times, una giornalista molto brillante, tra parentesi, che si chiama Sandra Blacksley. Lei ha scritto un ottimo libro proprio con Ramachandra, e lei ha scritto anche un libro sui neuroni specchio, in cui racconta, forse perché siamo in Italia, una cosa mitica, cioè a un certo punto un nostro studente è entrato e ha preso una nocciolina, l'ha aperta e il neurone ha sparato. A questo punto le ha detto, abbiamo scoperto i neuroni specchio. Allora ci dica la verità, com'è andata veramente? Non c'è la verità, noi ci siamo messi in questa situazione che le dicevo, di studiare da un punto di vista etologico l'animale, e quindi noi davamo l'animale effettivamente del cibo, talvolta lo rompavamo, talvolta facevamo altri gesti, insomma intorno alla scimmia facevamo un po' di teatro, e noi volevamo sapere come il sistema motorio trasforma in un oggetto in movimento. Faccio un esempio: se un oggetto piccolo lo piglio con due dita, se ho una salsa la piglio con la mano, cioè c'è una trasformazione visuomotoria da oggetto a movimento. Ecco, cioè, mi è arrivata subito una domanda di Paolo via SMS. Tra l'altro ricordo che il numero verde è 824-0024 o via SMS 349-238-6666. E la domanda è estremamente corretta. Ma i neuroni a specchio, si domanda Paolo, funzionano anche nei non vedenti? Sì, perché ci sono delle dimostrazioni, a parte nostre, ma ci ha lavorato molto un ricercatore che si chiama Christian Kaiser, che ha dimostrato che c'è una risposta anche uditiva, c'è un'azione, certe azioni ha dei rumori tipici. Facevo prima l'esempio delle noccioline, quando si rompono la scimmia capisce benissimo, ma ad esempio se lei rompe un giornale ha un rumore caratteristico, i passi della notte, uno dorme e sente dei passi della notte, riconosce l'azione. Bene, i neuroni specchio anche nel non vedente, anche se gli esperimenti sono stati fatti sui vedenti, ma ad ogni modo il rumore delle azioni eccita il neurone e quindi l'individuo capisce senza dover usare funzioni cognitive che cosa succede. Ecco, quella sui rumori e sui suoni è forse una delle frontiere più interessanti. Prima appunto abbiamo parlato di noccioline, gelati, quindi soprattutto di stimoli visivi, ma noi abbiamo parlato in precedenza con Rizzolati, mi ricordo che lei spiegava anche che c'è una funzione specchio per quello che è la musica, per quello che sono le parole, insomma, addirittura il nostro linguaggio sembra sia evoluto dalla gestualità, e quindi chiami in causa quando parliamo e ci capiamo a parole, anche come noi in questo momento, chiami in causa i nostri neuroni specchio, è vero? Ecco, qui la cosa è molto complicata, perché il linguaggio è una funzione estremamente complessa. Sicuramente, ecco, io direi sicuramente, non è difficile dire sicuramente perché stiamo passando dell'evoluzione, ma io direi che ci sono parecchi elementi nell'evoluzione del linguaggio che fanno pensare che non origina dalle urla degli animali, da quello che gli americani chiamano i calls degli animali, i suoni che emettono gli animali, ma piuttosto dalla gestualità. Quindi perché? Ecco, con Arbib, che è un famoso computer scientist americano, noi circa 10 anni fa abbiamo proposto questo. Perché? Perché è immediatamente comprensibile il gesto, mentre per capire una parola ci deve essere un accordo sociale. Cioè, se io afferro una tazzina, tutti capiscono subito che io afferro la tazzina, non dobbiamo metterci d'accordo che se faccio quel movimento afferro la tazzina. Se dico cane è un accordo italiano, perché se no in russo dice sabaca, chien in francese, dog in inglese, eccetera. Quindi c'è un accordo. Quindi la nostra ipotesi, che però esistono molte ipotesi prima della nostra sull'origine gestuale del gesto, ma noi abbiamo portato questo elemento nuovo, cioè mentre la comprensione del gesto è data immediatamente, senza un accordo tra le persone, il linguaggio no. Quindi dal punto di vista evolutivo io credo ci siano forti argomenti, e poi c'è un altro argomento, insomma, se fosse i suoni degli animali sono emotivi, le persone che hanno forti lesioni, grosse lesioni delle aree corticali del linguaggio ancora sono capaci di piangere, di urlare, di gridare. Quindi il legame con l'emozione nel linguaggio umano si è perso. Se fosse legato alle emozioni come negli animali non dovrebbe essere. Ma comunque l'argomento che abbiamo portato noi, che ha risuscitato il discorso sull'origine del linguaggio, è stato proprio questo: il gesto è capito immediatamente, la parola è capita in maniera mediata attraverso un accordo sociale. Ecco, parlando di gesti e parole invece, facciamo un passo indietro, perché voi avete cominciato proprio dai gesti, avete cominciato con i macachi, a studiare i macachi e quindi con gli animali. Dicevamo nella scheda che questi neuroni sono stati osservati nei macachi, nelle scimmie, nei primati non umani, diciamo, nell'uomo, negli uccelli, ma c'è anche chi li ha guardati, credo, negli elefanti, è vero? Qual è la... No, quello è stato, purtroppo quello è stato un sogno. Noi a un certo punto abbiamo ricevuto una lettera dell'Etiopia da parte di un ricercatore israeliano che lavorava lì, il quale diceva: magari si potrebbe vedere negli elefanti. Gli elefanti hanno la proboscide, che è come una mano, quindi in qualche maniera sono molto bravi ad usare la proboscide e capiscono cosa fanno gli altri quando muovono la loro proboscide. E mi aveva invitato ad andare in Etiopia a fare delle registrazioni degli elefanti. Non so come si fa, ma di ogni modo eravamo molto attratti dall'idea. Poi è successa una grande disgrazia, cioè c'è stato un attentato, non contro di lui, un attentato contro un pullman, e lui era in questo pullman ed è morto. Ecco, c'è un'altra domanda di un ascoltatore: si può attribuire ai neuroni specchio l'intuito sviluppato di alcune persone, cioè persone che hanno determinate sensibilità? Si domanda Roberto. Questo è vero, cioè noi sappiamo per certo che ad esempio le donne hanno una maggiore empatia per quanto riguarda le emozioni. E i neuroni specchio, o meglio il sistema, il meccanismo, è più sviluppato nelle donne in queste aree che sono legate alle emozioni. Poi recentemente proprio Marco Iacoboni, che mi ha scritto oggi qualcosa su Nova, ha scritto un articolo su Nova, dice che anche il sistema, diciamo quello più freddo, quello corticale, si attiva diversamente a secondo delle scale di empatia che uno può... ma poi ci sono ancora alcune cose sicuramente vere. Ad esempio, io sono tornato da poco dall'Australia, dove c'è un gruppo che ha dimostrato che uno è molto, ha i neuroni specchio che rispondono molto di più se uno dice: questa è la tua squadra, guarda questo gesto, e poi guardala un'altra squadra. Il gesto è lo stesso, i fenomeni attenzionali sono gli stessi, ma si attivano di più i neuroni specchio quando vedono la tua squadra del cuore. Per cui c'è un fattore emotivo che è fondamentale. L'empatia, esatto, un fattore emotivo che aiuta l'empatia. Ecco, questa empatia stupido il compito, perché non era una vera partita, semplicemente c'erano i rossi e i blu, i rossi sono tuoi, i blu no, e guarda i gesti, e la squadra dei rossi attivava di più. Ma questa empatia funziona anche tra specie diverse, per esempio tra me e il mio cane può funzionare o non è questione di neuroni specchio lì? Questa è una domanda un po' difficile, perché dipende da cosa fa il suo cane. Io penso che se il suo cane morde c'è parecchia empatia, se il cane abbaia c'è molto poca, perché noi non abbiamo un pattern motorio mirror per l'abbaiare, non appartiene al nostro. Quindi quando il cane abbaia non so quanto lei è empatico, ragiona cognitivamente, ma se corre ad esempio forse sì. Beh, certo. Il mordere perché afferra, non perché io morda, perché per lui il mordere afferra. Sappiamo mordere. Mi sembra che hanno squalificato un giocatore pochi giorni fa perché ha morso. Succede anche questo. Un'altra domanda di un ascoltatore: si domanda se un soggetto non ha mai fatto una certa esperienza, i neuroni specchio si attivano lo stesso? Perché questo, il ruolo dell'esperienza chiaramente è centrale. Qui la risposta non è univoca. L'esperimento più bello fatto da Becker, un olandese, sui bambini. Un bambino a pochi mesi di vita non sa camminare. Se gli si fa vedere dei filmati in cui un bambino cammina, i neuroni specchio non si attivano. Se vede invece uno gattonare, gli si attivano. Lui ha già l'esperienza del gattonare. Questo sarebbe molto a favore che uno prima impara e poi riesce a capire. credo però che un po' i neuroni specchio siano come il sistema immunitario, cioè noi abbiamo in potenza tante possibilità, poi quando questa si evolve riesce a rispecchiare, come nel sistema immunitario noi abbiamo tanti anticorpi, se poi arriva un certo virus questi si moltiplicano e lo fanno fuori. Ecco, una cosa simile io penso per i neuroni specchio: noi quando nasciamo abbiamo già una certa potenzialità motoria, man mano che queste si sviluppano poi anche i processi cognitivi correlati vengono capiti bene. Ecco Rizzolatti, la sua scoperta di fatto però ha sollevato anche un mini polverone, diciamo, nella comunità scientifica, ma non tanto sull'aspetto scientifico, ma sul fatto che insomma ci si è domandati allora come apprende la persona, cioè c'è una sola strada per apprendere. Alcuni filosofi che hanno sempre pensato che il linguaggio è sicuramente lo strumento principale, se non unico, dell'apprendimento, si sono trovati spiazzati da questa scoperta che, dimmi se sto dicendo correttamente Guido, che insomma esalta la capacità di imparare attraverso l'esperienza. Dunque, dal punto di vista filosofico, certo questo ha fatto un po' arrabbiare, diciamo, certi tipi di filosofi, filosofi analitici ad esempio, perché dà ragione a certe posizioni che loro consideravano quasi poetiche, come quelle di Husserl e di Merleau-Ponty, i quali avevano invece sempre sottolineato che la vera conoscenza è questa immediata, io capisco gli altri perché ripeto quello che loro fanno nel mio io. Dal punto di vista dell'apprendimento invece io sono sempre stato molto cauto, non ho mai detto che l'apprendimento via neuroni mirror è il migliore, cioè noi impariamo in molte maniere, mediante quello che viene chiamato trial and error, cioè provo e poi sbaglio e capisco, cioè credo che siano molte maniere. Una cosa su cui insisto molto è che l'imitazione, e quindi un processo in cui intervengono i neuroni specchio, è alla base della cultura. Perché è l'unica maniera in cui noi possiamo in qualche maniera ripetere quello che fanno gli altri. La cultura è trasmissione di conoscenze apprese. Certo, e però abbiamo anche un'altra persona in linea che vorrei salutare, Pietro Fanner, neuropsichiatra e direttore scientifico dell'IRCCS Fondazione Stella Maris a Pisa, e che saluto, buongiorno. Buongiorno. Professore. Buongiorno. E perché chiamo in causa Pietro Fanner? Perché le scoperte di Rizzolatti non sono solo diciamo innovative sul piano filosofico, come diceva Luca, ma hanno dei risvolti poi anche molto interessanti e molto importanti per la clinica. Lei, professore, studia dei ragazzi molto particolari, che hanno problemi di autismo, quindi di comunicazione con l'esterno. Perché sono importanti i neuroni specchio in questi casi? Sì, innanzitutto ringrazio voi come organizzatori di questa trasmissione, del gentile invito, ringrazio e saluto con molta amicizia e molta riconoscenza Giacomo Rizzolatti che è presente. Ma io sono in qualche modo testimone della grande importanza delle scoperte di Rizzolatti e del suo gruppo, testimone emozionato, che grande importanza che va ben al di là della biologia e della medicina, anche se sono investite prima di tutto tutte le scienze mediche, e soprattutto come neuropsichiatra dello sviluppo. Perché noi studiamo proprio la formazione e i giochi che nel cervello si compiono per apprendere correttamente o non correttamente nella patologia, sia capacità, sia emozioni, sia strumenti. Quindi questa scoperta in qualche modo ha confermato determinate sue terapie? Sì, assolutamente sì. Ci sono state delle intuizioni anticipate di psicologi e psicopatologi che hanno aperto questa strada in qualche modo, ma sul piano speculativo. Ora trovarne così chiaramente confermata la validità è una cosa che ci emoziona molto. Ecco. Io volevo ricordare che fino a epoca recente si pensava che l'attività di base del cervello fosse divisa rigidamente in due tipi di funzioni, quella in uscita dal cervello ai muscoli, l'output deputato al movimento, e quella in entrata dalla periferia del corpo al cervello deputata alle sensazioni, cioè alle informazioni che provengono dall'ambiente. Bene, questi due tipi di attività sono affidati a cellule specifiche dette neuroni, come non tutti i profani sanno, prolungati in lunghi filamenti conduttori di energia elettrica. i rapporti fra via d'entrata e via d'uscita vengono dal cervello e sono costitutivi dell'attività nervosa mentale. La scoperta di Rizzolatti... Sta tenendo una lezione, professore. Come? Ci sta tenendo una lezione, noi siamo rapiti. No, siamo rapiti, purtroppo abbiamo i tempi radiofonici, sono un pochino più stringenti. Il problema è questo, che la capacità già descritta da Rizzolatti, che i neuroni specchio danno al cervello, è una capacità che avviene in modo passivo, involontario, inconsapevole, automatico, istantaneo, con trasmissione da cervello a cervello delle intenzioni e delle emozioni legate all'azione osservata. E questa è la grande novità. Questi neuroni iperspecializzati, non tutti i neuroni, sono diffusi nel cervello umano, costituiscono uno specchio delle azioni osservate, delle loro finalità, del loro significato, e intenzioni, credenze, emozioni suscitate creano una rete interumana cognitiva e affettiva, ripeto ancora, automatica, involontaria, inconscia, che sta alla base ma precede ogni elaborazione di tipo cognitivo e intellettivo. Questa capacità è stata chiamata empatia, come ha già detto Rizzolatti, un nuovo tipo di empatia, cioè la capacità di capire le intenzioni e le emozioni degli altri solo osservando il loro comportamento. Ecco, per quanto riguarda l'autismo, qual è il portato di questa scoperta? La prima cosa, e quindi siccome questa capacità crea uno spazio di significato condiviso e comprensibile fra tutti gli umani, in cui noi siamo immersi fin dalla nascita, abbiamo constatato che c'è un'eccezione importante, quella dell'autismo. I bambini autistici, studiati anche particolarmente da Rizzolatti proprio per vederne le ipotesi interpretative, sembrano proprio carenti dei bambini autistici questi neuroni specchio e da cui sembrerebbe possibile far dedurre tutti i difetti della socializzazione tipica nei bambini autistici. Nova Lab 24. Bentornati, 16:33 minuti, Luca Tremolada. Insomma, stiamo parlando di neuroni specchi, stiamo cercando di capire quello che è il portato di questa scoperta scientifica. Moltissimi gli sms che stanno arrivando, uno per tutti, lo giro direttamente a Rizzolatti. No, tra l'altro chiudiamo il discorso, Guido, con sull'autismo. Ma sull'autismo, per chiudere con Fanner, quello che stavamo cercando di dire è che queste scoperte hanno dato finalmente una quadra scientifica, una quadra empirica a quello che loro teorizzavano, che molti neuropsichiatri teorizzavano da tempo, e quindi stanno fornendo un nuovo strumento per sviluppare delle terapie. Vero, Fanner? Sì, volevo concludere rapidamente. Sì. Anzitutto, per quanto riguarda l'autismo, l'abbiamo già detto, nasce probabilmente un nuovo stile, un nuovo tipo di terapia dell'autismo, basata non più sulla freddezza del rapporto, ma sul calore dell'empatia. Sarebbe lungo spiegare come, ma ci sono molte vie che saranno confermate o meno da quella che accennava Rizzolatti, che è la possibile creazione, attivazione dei neuroni specchio nella prima infanzia. E quindi la carenza nelle certe patologie, ma non solo dell'autismo, in molti disturbi cosiddetti della personalità, personality disorder. Ma poi tutta l'educazione, tutto l'insegnamento riceverà, secondo noi, una novità assoluta di stile, di rapporti, ma lo stesso proselitismo, l'informazione, il proselitismo, il giornalismo, il proselitismo del consenso, la stessa politica. Speriamo. Che utilizza l'empatia, l'imitazione, e solo dopo l'analisi critica. Si tratta di portare in primo piano invece questo trascinamento emotivo, ma sottoposto all'analisi critica. Tra l'altro, il professore, le farà piacere sapere che un ascoltatore mi ha sgridato perché le ho tolto la parola per darla alla borsa, ma non posso fare nulla sui tempi, mi sono imposti. Mentre abbiamo Simone da Biella in linea, buongiorno. Buongiorno, salve. Domande tantissime per il professore, perché l'argomento è molto interessante. Ne faccio tre in ordine di spessore scientifico. La prima è, possono i neuroni a specchio spiegare quello strano fenomeno per cui quando vediamo una persona sbadigliare siamo portati a sbadigliare a nostra volta? La seconda domanda, con l'età e la perdita neuronale, perché poi comunque diventando più anziani i neuroni muoiono, perde pertanto anche la capacità di provare empatia E infine l'ultima domanda molto secca, usando il linguaggio del professore, il neurospecchio spara quando siamo da soli in una stanza davanti a uno specchio, o il fatto che noi identifichiamo noi stessi blocca questi neuroni? Grazie, partiamo dall'ultima. Rizzolatti, ha sentito? C'è stato un po' di controversie sullo sbadiglio, perché inizialmente è stato studiato da una ricercatrice finlandese molto brava, la Ritari, usando la magnetoencefalografia, e sembrava che non ci fosse un rispecchiamento a livello corticale. È uscito poi successivamente invece un lavoro di un gruppo canadese che trova che anche lo sbadiglio c'ha una parte corticale, quindi probabilmente le tecniche diverse sono state usate, quindi direi di sì, attualmente c'è una prova positiva a favore che lo sbadiglio, che è una cosa estremamente contagiosa, è mediato dai neuroni specchio. Poi la seconda domanda è sull'età. Ma l'età porta a un progressivo diminuzione certamente delle cellule, ma che colpisca selettivamente i neuroni specchio direi di no, è più la memoria che è colpita. Mi sembra che l'empatia che hanno le persone anziane verso ad esempio i nipoti, verso ci sono, quindi non direi che è un patrimonio neurale che viene selettivamente perso, forse viene un po' perso, ma non mi sembra che ci sia una patologia particolare di insensibilità delle persone anziane verso gli altri. L'ultimo invece non so rispondere, perché vedere se stesso è abbastanza complicato. Io non so. Anche negli animali è complesso quando si specchiano, non si sa mai se il gatto riesce a vedersi, insomma, non è chiarissimo. Questo per dire che Tremolada non riesce a vedersi quando si specchia. Esatto. Abbiamo dei problemi anche nostri. Comunque, su questo, insomma, non c'è una risposta univoca. In questo momento non darei una risposta scientifica, potrei dire qualcosa, ma sarebbe così pura chiacchiera. Ecco, noi abbiamo in collegamento anche Luca Chittaro, professore di Interaction Design all'Università di Udine. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Chittaro, le lancio subito una domanda, visto che siamo di corsa coi tempi. Rizzolatti e Fanner parlavano appunto di, soprattutto Fanner parlava di ricadute dei studi sui neuroni specchio, su tutto quello che ci circonda, il mondo, il nostro modo di interagire col mondo, dall'apprendimento al giornalismo, alla scuola. Il nostro mondo è un mondo tecnologico, quello che poi lei va a studiare, a disegnare. E mi diceva stamattina che ci sono moltissimi studi proprio partendo dai neuroni specchio su come noi interagiamo e come le macchine devono interagire con noi, per esempio dai siti web ai robot, è vero? Sì, nell'interazione uomo-macchina si studia che cosa accade quando le persone interagiscono con strumenti tecnologici, e quindi riuscire a fare delle misurazioni il più possibile oggettive, si usa negli anni più recenti anche l'elettroencefalogramma, è uno dei metodi. E per citare proprio Ramachandran, che avete già citato, il suo gruppo all'Università della California fa le varie ricerche e sta lavorando a un test per l'industria robotica. Qual è uno dei problemi che ha l'industria robotica? In futuro vuole proporre dei robot antropomorfi che giocheranno ruoli come quello della badante, che è molto richiesto soprattutto in paesi come il Giappone. E noi utenti di futuri di questo genere di robot entreremo in una relazione di tipo sociale con queste macchine. Si pone quindi, per progettare bene queste macchine, il problema di andare a verificare quanto bene, in modo quanto ottimale riescono a entrare in relazione sociale con l'uomo. Allora Ramachandran e i suoi colleghi stanno cercando di inventare questo test dove ci si trova di fronte a diversi tipi di robot, magari uno può essere con 5 dita, uno con 3 dita, uno con la faccia più da uomo, uno con la faccia più da cartoon, quindi vari modelli di robot. E questi robot hanno dei comportamenti tipici dell'umano che noi osserviamo, e il test mira ad andare a misurare se i neuroni specchio reagiscono come reagirebbero nell'osservazione di un essere biologico di fronte al robot. Se reagiscono, allora il test dice che questo robot è buono, è socialmente ok. Se non reagiscono, invece, vuol dire che viene visto come una macchina, non come un essere, un agente sociale. E questo secondo lei dipenderà dall'aspetto del robot o dal tipo di interazione? Appunto lo scopo del test è proprio perché a priori non sappiamo ancora quali sono le forme dei robot. Idealmente uno potrebbe dire ma facciamo delle copie perfette degli esseri umani e funziona. Invece si è visto non sui robot ma sui personaggi virtuali che si trovano nei videogame o negli ambienti di training in realtà virtuale, si è visto che aumentare il realismo di questi personaggi, il realismo visivo, non necessariamente li fa diventare più graditi, quindi non è solo il realismo visivo che determina se percepiamo come agente sociale una macchina. Ma quindi poi sembra quasi che dovrete andare a disegnare anche dei neuroni specchio per i robot tra un po', Kitter. Sì, questo servirebbe perché il robot percepisca l'utente come un agente sociale. Ecco, Rizzolatti, com'è che si possono migliorare le capacità dei neuroni specchio? Come si possono migliorare, come si possono allenare le capacità dei neuroni a specchio? Io mi immaginavo magari ci sarà proprio un uomo virtuale che può aiutare, insomma, non lo so, mi dica. Questo è un problema molto, molto importante, perché anche rilacciandomi a quello che ha detto prima Fanner, insomma, attualmente la convinzione è che in certe patologie, l'autismo in particolare, i neuroni ci siano, quello che manchi sia la connessione tra i neuroni. I modelli animali dell'autismo, dico, il numero dei neuroni è intatto, quindi immagino che forse anche i neuroni specchio ci sono, ma quello che manca è il contatto tra neuroni. Ora, la via che noi qui cerchiamo di, insieme con altri, di sviluppare è quello di vedere, di fare imparare ai bambini con autismo tutta una serie di motilità. Loro hanno molti problemi di movimento e noi in qualche maniera rovesciamo la posizione tradizionale, dice questi hanno deficit cognitivi, invece noi pensiamo che loro essenzialmente dei deficit nell'organizzazione motoria, nel sapere come fare, della loro intenzione, e se riuscissimo a far come farlo però è molto difficile. Noi abbiamo inventato una serie di test che adesso stanno provando soprattutto in Toscana, speriamo tra poco anche di collaborare col professor Fanner, naturalmente siamo però a San Miniato, in provincia di Firenze. E l'altra idea che abbiamo, però ancora siamo, è quello di usare alcuni proprio dei metodi tipo, conoscete la Wii? Quel sì, gioco, sì, sì, ne abbiamo parlato. Lì è una bellissima piattaforma per poter sviluppare qualcosa, piace ai bambini, piace anche agli adulti. Piace anche agli adulti, dà dei parametri oggettivi, e se si potesse migliorare quei giochi, renderli meno competitivi ma più di collaborazione, potrebbero essere utili perché sviluppano le capacità motorie e dall'altra parte si fanno vedere l'altro come quasi un te stesso. Quella è una delle vie, per cui credo quello di cui parlava Kitter è molto giusto, il rapporto tra uomo e macchina potrebbe essere utile non solo per infatti migliorare. Non a caso citavo l'uomo virtuale, perché insomma questa è un'altra puntata comunque, se già entriamo su questa strada. Purtroppo però il nostro tempo è esaurito, io ringrazio Giacomo Rizzolatti, Pietro Fanner e Luca Kittaro. Nova Lab 24. Bentornati, ci ha raggiunto Enrico Pagliarini che ci, insomma, noi stiamo chiacchierando di robot in realtà, però insomma di aspirapolvere. È di aspirapolvere come al solito, sì. Però adesso ci aggiorni un attimino su quello che racconterai domani alle 15.30 con 2024. Sì, buongiorno, ciao. Dunque domani iniziamo diciamo una carrellata di puntate in vista del Natale, visto che molti ascoltatori ci scrivono e ci chiedono, fanno delle domande perché vogliono comprare i regali di Natale. Uno dei regali più desiderati sono i computer, e allora faremo una puntata, una buona parte della puntata dedicata ai computer. Il computer, qualche nel consiglio, senso il PC, sì. Cioè il desktop, i computer, ah, poi i netbooks, i notebook, i tablet, netbooks, PC che stanno e-books, tornando un po' di moda, esatto. Quindi, poi parliamo anche di Wi-Fi perché ci sono alcune notizie interessanti. Allora, è stato presentato una proposta di legge per superare alcuni vincoli posti in Italia dal famoso decreto Pisano, cioè banalmente, se io vado in un albergo negli Stati Uniti, navigo in wifi tranquillamente. No, ma noi siamo l'unico paese in Europa che mi risulti. Sì, però allora su questo punto probabilmente, cioè, il tema, aspetta, ricordiamo qual è il tema. Il tema è che se devo connettermi a una rete pubblica, io devo portare la mia carta d'identità. Esattamente. Poi adesso c'è chi usa l'escamotage che alcuni, appunto, in questa proposta di legge vorrebbero rendere legale dell'SMS. Ti arriva una password e tu con questa password puoi navigare. Cioè la ratio della legge è: chi naviga in ambito pubblico deve essere tracciabile, identificabile. Esatto. Devo dire che da questo punto di vista forse siamo più avanzati rispetto agli altri paesi, perché è molto probabile che anche gli altri paesi a livello europeo tra qualche mese, in teoria almeno queste sono le intenzioni, metteranno qualche vincolo in più perché vogliono tracciare come direttiva, poi lasciano agli stati nazionali la possibilità di decidere. Di fatto è una bella scocciatura, però sì, certo. Nel senso che non so, io parlo per Milano, doveva nascere il Parco Sempione completamente wifi, boh, chi l'ha visto? No, nessuno. Certo. Sì. Quindi poi parleremo brevemente anche degli SMS, visto che c'è stata una decisione, più che una decisione, diciamo che l'autorità delle comunicazioni ha accettato le proposte avanzate dagli operatori. In questo caso non hanno tirato le orecchie agli operatori di telefonia come in altre occasioni. C'è chi a volte, anche in questo caso, critica un po' l'autorità per le comunicazioni per essere troppo buona con gli operatori, insomma parleremo anche di questo brevemente domani. Perfetto, io saluto Guido Romeo. Tra l'altro Guido Romeo torna martedì e con lui partiamo di kilowattora. Parliamo di kilowattora? Parliamo del kilowatt. Quanto ci costa? Quanto costa? Insomma, parliamo di energia, mentre noi ci ritroviamo lunedì alle 4. Buon weekend!